9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, è a oggi 2 settembre, nuova versione della manovra, era bis, sarà in che versione dopo tutte queste correzioni quotidiane? Ter, quater, quinquies, sexies, vedete voi. Oggi, dovendo rimediare al pasticcio fatto lunedì con le norme sul mancato computo del riscatto di laurea, specializzazione militare per il calcolo degli anni necessari al tetto dei trattamenti di anzianità, e poiché nel frattempo era caduto anche il contributo di solidarietà, cioè la sovraliquota marginale IRPEF oltre i 90.000 euro, si trattava di coprire un buco rispetto alle previsioni precedenti del governo, che era pari ai 3,8 miliardi in manovra triennale da contributo di solidarietà, e in più c'era anche la questione che il governo nel frattempo, di fronte alle pressioni diventate oramai unitarie e molto pesanti di tutte le autonomie, comuni e regioni, di tagliare i 6 miliardi di tagli anticipati 2012, che sono l'effetto delle due manovre di luglio e agosto, e il governo ha detto no, di quei 6 miliardi ne tagliamo 1,8, quindi 3,8 più 1,8, c'erano praticamente quasi 6 miliardi di euro di buco da coprire. Attesa l'altro ieri per l'emendamento del governo viene protratto a ieri pomeriggio alle 15, poi alle 17, e alle 17 apprendiamo quello che avevamo del resto quasi tutti capito: non ci sono nuovi accordi nel governo per misure strutturali a copertura di questo fabbisogno che si è creato per via degli zigzag, degli autoribaltamenti, dei cambiamenti di opinione, di misure malfondate sin qui proposte dal governo nella sua manovra, un po' come i mostri dal videogames. D'ora in poi utilizzerò spesso questa visione, e mi viene da un ascoltatore che mi ha mandato un messaggio dicendo: ma il ministro che ci diceva che la crisi era quella che produceva ogni giorno mostri dal videogames, risolto uno ne appare un altro, in realtà sono le loro versioni della manovra che sono così, e in effetti mi sembra efficace come manovra. E allora ieri apprendiamo dall'emendamento che tutto ciò che non viene da misure aggiuntive di spesa, di riduzione della spesa, viene invece dall'inasprimento della lotta all'evasione. Le misure sono quelle che sentite bombardare ogni edizione di giornali radio e TG, le ricordo sommariamente: carcere per dichiarazioni fraudolente oltre i 3 milioni, perché cadono le soglie di attenuanti oggi previste, quindi si va in galera; facoltà concessa ai comuni, che sono loro a decidere però, di pubblicare le dichiarazioni dei redditi di tutti i contribuenti, e relativa questione che si pose quando già ai tempi di Visco finimmo per pubblicare sui giornali liste di contribuenti. Ricordate che scattò un provvedimento da parte del garante della privacy, e anche oggi il garante della privacy Francesco Pizzetti sui giornali ribadisce che c'è un problema di privacy a rischio. Poi giro di vite sulle società intestatarie di beni mobiliari e immobiliari che in maniera fraudolenta vengono incardinate in queste società, poiché invece sono nell'utilizzo di privati, una sovrattassa fino al 10% oltre di IRES per queste società, quindi una batteria di provvedimenti. Inoltre con la facoltà ai comuni di arrivare fino al 100% dei nuovi introiti da lotta all'evasione. Ricordate che qui c'è una progressione percentuale dei nuovi introiti: si cominciò col 30%, poi si arrivò al 33%, poi al 50%, adesso si arriva fino al 100% per quelli più virtuosi. Vi chiedo di dirci come la pensate su queste misure, quindi non solo il 349-238-6666 per i messaggi SMS, ma anche di chiamare all'800-24-00-24. Avete capito che in questi giorni diamo ancora più spazio a voi, alle vostre voci, che al solito, perché è chiaro che con queste modifiche quotidiane tentiamo di fare un servizio anche per dare la vostra voce, e così in maniera tale che chi sta in Parlamento debba decidere si renda conto degli effetti di mancata credibilità che questo modo di procedere produce nel Paese, che hanno un ulteriore effetto sulle aspettative e sulla fiducia, che come tutti sappiamo contribuiscono a deprimere ulteriormente questa bella condizione di un Paese che cresce pochissimo da 15 anni a questa parte. Io vi dico brevemente, prima di presentarvi gli ospiti, come la penso. Penso che il governo faticherà molto a fronteggiare le richieste di tutte le autonomie, mai così unite da destra a sinistra, mai così determinate a far venir meno oramai tutti i tagli aggiuntivi previsti. Io ripeto, per si tratta di 6 miliardi l'effetto dei due decreti nel 2012 e altri 3,2 nell'anno successivo, quindi credo che si creerà un problema aggiuntivo di risorse da reperire. Ricordo tutti che i 6 miliardi di tagli ai ministeri sono ancora tutti da attribuire, quindi voglio vedere se poi c'è l'accordo politico tra di loro per farlo. Alcune norme elementari di quelle che ricordo ai miei studenti su come si può o non può postare nella contabilità pubblica i proventi da lotta all'evasione. Io credo che non si possa in alcun modo postarlo ex ante, come se fosse una voce di manovra, o quantomeno bisognerebbe farlo con un fondo compensativo negativo, cioè se Oscar Giannino vi proponesse una bozza di manovra in cui ci sono 3, 4, 5, 6, 10, 12 miliardi da lotta all'evasione ex ante, dovrei imporre una voce di spesa dove ci sono 3, 4, 6, 8, 12 a seconda di quale sia la cifra che vi metto in entrata, in cui c'è un fondo compensativo di spesa, un fondo negativo appunto, questa spesa non si accende se veramente poi i soldi non entrano, ma come minimo come l'ABC di tecnica contabile non viene fatto, mi pare di capire, in questo modo, perché invece si mettono ex ante i soldi da lotta all'evasione a copertura di spesa. Questa cosa non riesco a capire come possa essere praticata, mi auguro che non sia così, ma tutti abbiamo capito che è così, punto numero uno. Punto numero due, quanto al giudizio da dare su questo. Ieri il Financial Times c'era un articolo in cui diceva: quando un governo europeo richiamato dalla BCE perché è sul soglio del baratro e perché l'importanza del suo mercato come emittente è tale da creare un problema per tutto l'euro, dà una risposta di politica di bilancio basata sull'intensificazione della lotta all'evasione, vuol dire che o ha carenza di volontà politica oppure è arrivato alla frutta. Credo che il giudizio del Financial Times sia fondato. Io non do sempre ragione per principio, non sono un esterofilo al Financial Times, ma quello di Financial Times di ieri mi sembra un giudizio per una volta ex ante, che scalza perfettamente le misure date ieri. In più c'è un significato politico. È chiaro che questa svolta incondizionata leva per sempre, ripeto per sempre, a maggioranza e governo, a centrodestra, a Berlusconi, a Tremonti, a chiunque di loro, il diritto di fare l'ironia, gli attacchi, le considerazioni che per anni hanno rivolto e riservato a Vincenzo Visco, alla buonanima di Tommaso Padoa-Schioppa che non è più tra noi, a Romano Prodi, dicendo che il nocciolo duro della politica di bilancio del centrosinistra era più tasse per mascherare l'aumento di spesa corrente incontrollata. D'ora in poi, per favore, silenzio su questo, visto che è praticamente la bandiera bianca, viene messa sul pennone e Visco può legittimamente trionfare, a differenza del fatto che lui l'ha incardinata in una linea di misure che dal suo punto di vista era coerente ed era dichiarata prima, mentre loro ci arrivano dopo aver deriso, irriso e calpestato per tanti anni ciò a cui si riducono per disperazione all'ultimo secondo. Aggiungo che su alcune misure tipo manette agli evasori, ma io sorrido abbastanza come effetto di dissuasione. Su altre, il fatto di indicare i propri conti correnti, gli intermediari finanziari con cui si opera, il contribuente dovere indicare nell'unico, mi sembra che oltre a scoraggiare l'utilizzo di intermediari esteri, cosa che non mi piace per niente, visto che io sono un critico delle banche italiane, è un chiaro preliminare, perché una volta che noi diamo gli estremi anche di questo, possiamo mettere in condizione lo Stato in 5 secondi di metterci le mani dovunque per la patrimoniale che arriverà, e quindi anche da questo punto di vista mi sembra che ci sia da preoccuparsi. Infine, io resto da liberale coerente, convinto che la facoltà concessa ai comuni di pubblicare le liste sia contraria a una civiltà liberale. Lo Stato deve sapere e sa tutto delle mie dichiarazioni dei redditi. Cosa diversa è incitare la delazione fiscale, soffiare sul fuoco dell'odio sociale tra poveri, invitando tutti gli italiani a dire lui ha questo, lui non ha questo, io invece so di più, è sempre lui il colpevole che non paga le tasse, dimenticando che con queste misure noi arriviamo al 2014 a un complesso totale di entrate del paese che è a 49 punti per cento del PIL. Stiamo sorpassando ogni record da questo punto di vista. In un paese che cresce poco, questa è una sberla depressiva, la violazione di ogni promessa del centrodestra, e oltretutto non è risolutiva, perché dovremo farne altre, perché la pressione dei mercati giustamente risalirà per mancanza di credibilità. Questo è il mio giudizio, sentiamo cosa ne pensano invece i nostri ospiti e tra poco che ne pensate voi. Allora, noi abbiamo Raffaello Lupi, lo conoscete, insegna il diritto tributario all'Università di Roma a Tor Vergata, insospettabile, diciamo così, di essere tenero nei confronti di questo governo, ma stimatissimo tra noi addetti ai lavori per il contributo che dà allo studio, all'evoluzione e soprattutto alla civiltà del nostro ordinamento fiscale, che ne ha molto bisogno. Buongiorno professor Lupi. Mario Secchi, direttore del Tempo, grazie a te Mario. Ciao Oscar, buongiorno a tutti. Osvaldo Napoli, il vicepresidente PD della Camera, e che gli tocca in questo durissimo periodo svolgere soprattutto la funzione di presidente dell'ANCI. Buongiorno Osvaldo Napoli. Buongiorno a voi, lei corrisponde a tutta verità, è dura. È dura. Allora, io posso chiedere, visto che lunedì andiamo a una giornata di manifestazione, insomma, l'intensificazione della vostra protesta, che ci dica in sintesi come sta la trattativa con il governo, cosa chiedete, cosa pensate di portare a casa? Guardi, cosa, non sappiamo più nulla, le chiedo molte scuse, cioè, tre giorni fa ci dicono che tagliano la metà, la manovra da 6 miliardi passiamo a 3, il giorno dopo ci vengono a dire che non sono più 3 ma prendiamo la Robin Tax di cui il 50% era già dei comuni e scendiamo quindi a 4,2, cioè, non sappiamo più nulla, ma la verità è un'altra, è che la percentuale maggiore di questa manovra va sugli enti locali. E gli enti locali, ma lo dico con profondo rispetto, se tanti anni fa c'era da scialacquare, c'era lo sperpero da parte di tutti, cioè si facevano delle cose, oggi non ce la fanno più, il barile è completamente raschiato. Quindi voglio dire, voglio fare soltanto un esempio, vedo avete anche degli ospiti, ma anche a lei. Ma quando si mette una norma in cui si dice che si obbliga la vendita delle società di pubblici servizi, ecco, chiedo scusa, ma vendere le società oggi, le quote azionarie delle società di pubblici servizi oggi, significa sperperare del denaro, perché tutti sanno che venderle oggi significa che quello che valeva 100 un anno fa oggi vale 20, allora soltanto chi ha scritto quello, ma dalle tempo un anno, due anni, a chi si recuperi il valore dell'azienda, chi ha scritto, no, cosa ha scritto, come si rende conto? Ma potrei andare avanti anche, direi, i comuni hanno in queste tre manovre 7 miliardi di tagli, 7 miliardi, tenendo altresì presente di averne dati 3 per aver amministrato bene. Io devo dire, io non so più cosa dire, quindi tralascio gli altri discorsi, quando la percentuale che i comuni danno al governo totale del 2,4, la differenza, cioè quindi il 97,6 è dello Stato. Allora io credo che qua ci vuole qualcuno che prende in mano una situazione che diventa disastrosa, cioè i comuni non è che vogliono fare qualcosa contro, anzi vogliono dimostrare, e faccio un'ultima domanda poi vi lascio a parlare, ma perché non siamo stati chiamati anche sulle questioni ordinamentali, sui piccoli, avremmo dato il nostro benestare andando a spiegare come, cos'erano, quando è uscita fuori la prima norma, dice facciamo il sindaco podestà, ma chi è che ha scritto questo? Ma contro la Costituzione, ma come fai? Oltretutto tutti quanti i comuni che non prendono nemmeno una lira. Allora bastava dirlo, le avremmo detto noi cosa scrivere, andando attenzione a dire quello che desiderano loro. Quindi mi pare, ci pare che ci sia qua da parte di qualcuno, ma io mi riferisco poi anche ai funzionari, ai dirigenti, che scrivono con una maniera molto estremamente leggera dei provvedimenti che non hanno senso. Lasciamo stare anche il discorso delle pensioni, che non voglio nemmeno entrare in merito. Però voglio dire, mi pare che ci sia dell'intantismo direi galoppante. Allora, dilettanti allo sbaraglio, questo è in sintesi il giudizio che ci dà onorevole Osvaldo Napoli, ripeto, anche lui PDL, questo è solo per farvi capire però che la questione dei tagli alle autonomie secondo me apre un ulteriore problema di fabbisogno da coprire rispetto a questa manovra. Ricordate che le procedure nuove date dopo l'ultimo round di aiuti alla Grecia, 28 di giugno, prevedono che la BCE, poiché è incaricata su ordine dei tedeschi che non vogliono che lo faccia l'FSF europeo, perché lì bisogna passare per fondi dati dai parlamenti, i tedeschi non vogliono, chiedono alla BCE di fare gli acquisti dei titoli, anche se la BCE è un po' renitente, la BCE si è data la regola che d'ora in poi paesi rilevanti che accrescano l'attenzione complessiva dell'euroarea si beccano note scritte, come puntualmente è avvenuto con le richieste scritte. Io ricordo a tutti che le richieste scritte erano quelle di una manovra efficace su conti strutturali, fatta molto più sui tagli di spesa che di aumento delle tasse, è l'esatto opposto di questo tipo di governo, efficace nei saldi strutturali finanziari pluriennali e con dismissioni patrimoniali per la riduzione dello stock del debito pubblico. Dismissioni patrimoniali per la dismissione del debito pubblico qua non ci sono, e c'è un problema molto forte invece di credibilità dei saldi. Professor Lupi, il suo giudizio sulla batteria di misure della bandiera bianca del governo di centrodestra su cui c'è scritto Visco ha sempre ragione, dal punto di vista tecnico e anche politico, ma prima tecnico, qual è il suo giudizio? Ma io veramente glielo darei politico in senso ampio, cioè nella gestione delle finanze pubbliche sicuramente anche la comunicazione è importante, però non si può vivere di comunicazione, non si può vivere di che cosa si dirà in conferenza stampa. E prima si diceva in conferenza stampa che il finanziamento sarebbe venuto dal maggiore sviluppo, adesso si dice in conferenza stampa che il finanziamento verrà dalla lotta all'evasione. Vabbè che le illusioni, come diceva Huizinga, sono la parte principale della realtà, però si esagera, sono importanti, dall'altra parte avevamo persone che dicevano che se un provvedimento si comunicava bene allora era sbagliato, però non si può vivere passando da una conferenza stampa all'altra, cambiando idea a seconda di come si presentano gli umori della piazza mediatica, diciamo così. Sul piano tecnico il problema grosso è che i soldi ci sarebbero, ma non sappiamo come andarli a prendere, cioè noi abbiamo, questo l'opinione pubblica non lo sa e quindi è normale che la politica rispecchi la confusione dell'opinione pubblica, però lo strumento di richiesta delle imposte in questo paese sono le aziende, punto. Noi tassiamo attraverso le aziende, il governo non ha mani, non ha strumenti di richiedere se non dire a qualcuno di prendere le imposte, lo dice alle banche, lo dice alla grande distribuzione, lo dice alle aziende. Per questo l'idea di lotta all'evasione è, questo non l'ho detto, non posso dire con chi l'abbiamo detto, ma sicuramente sono persone insospettabili di favore verso gli evasori, non è quello di mandare in galera qualcuno, è di richiedere le imposte dove le aziende non arrivano. La patrimoniale non può funzionare, non si è potuta fare, perché non è che si poteva chiedere alle aziende di tassare i patrimoni dei privati, a parte che le patrimoniali ci sono già, l'ICI, certo, e quella che ha messo Tremonti sui bolli bancari. Ah, come no? L'aumento del prelievo sul conto deposito titoli, quello è anche quello. Certo. No, il super bollo, cioè le aziende possono tassare quello che vedono, quello che gli passa sotto mano. Andare a cercare i patrimoni degli italiani, infatti la imposta sulle società di comodo in realtà è una patrimoniale. Esatto. Cioè si scrive reddito ma si pronuncia patrimonio. Esattamente. Quindi insomma è una situazione tra l'altro, per far capire a chi a casa e non ha una grande consuetudine con i numeri insomma del sistema delle entrate italiane, in realtà la parte assolutamente predominante, cioè ben oltre il 90% di quello che poi lo Stato, sono 450 rotti miliardi la parte del gettito tributario complessivo statale, viene da poche decine di migliaia di imprese. Viene da 40.000 aziende, di cui la metà probabilmente sono dei grandi evasori in piccolo, cioè il capitalismo familiare italiano. Adesso abbiamo letto tutti la storia dei Mastrotto sul Corriere della Sera, di Arzignano, qui si può anche dire, ma quello è uno che ha pagato un sacco di tasse, di ritenute sui dipendenti, IVA, eccetera. Quindi è nello stesso tempo un esattore e uno che poi naturalmente davanti al padrone, davanti a esigenze, l'azienda si ferma e dice, questo provoca anche molta rabbia sociale, perché uno dice le aziende tassano noi, certo, come sostituto d'imposta, certo, come consumatori, come risparmiatori, e però diciamo poi davanti al padrone si fermano, ma è naturale. È certo che è naturale, perché il problema è che c'hanno un equilibrio e anche di concorrenza. Adesso non le voglio giustificare, però questa osservazione che sta facendo il professor Lupi ci consente di capire i paradossi dell'evasione italiana. Credere che l'evasione italiana sia una cosa tutto bianco, tutto nero, ci sono tutti quelli che rispettano fino all'ultima riga e quelli che non rispettano per niente, significa non avere presente come funziona davvero il sistema italiano. Ma tutti, le imposte si pagano quando qualcuno te le chiede, cioè Orwell diceva in materia di imposte nessuno è patriota. Mi dice Alessandro Santoro, che mi è dato a un incontro europeo, che in Danimarca gli autonomi fanno una cresta del 40%. Bravo il professor Lupi che lo dice, perché sembra che in Italia invece abbiamo questa propensione al DNA. È una questione di confronto tra la libertà individuale e l'ordinamento. Professor Lupi, ma al volo, lei per la pubblicazione affidata alla scelta dei comuni dei redditi online, favorevole o meno, secondo lei viola la privacy, a cosa serve? Si presenta e dice: scusi, ma la sua gioielleria, ma non dichiara un po' poco? E infatti mettere i redditi individuali su internet è una stupidaggine, cioè bisogna metterci, c'ha ragione la privacy e quello che diceva prima sulla riservatezza, bisogna sapere le attività economiche, bisogna sapere quanto guadagnano le società. Se io vado in un mobilificio vorrei vedere attaccato accanto alla licenza la sua dichiarazione, ma non quella del proprietario. Esattamente. Questo, se tra vado al bar, dico bello questo bar, chissà quanto dichiara, io sto al mare, vado allo stabilimento, bravissimi, gentili, vorrei vedere, ma questo quanto dichiara, chi è? Questo, professore, mi consente al volo di chiarire alcuni ascoltatori ieri sentendomi criticare molto duramente le tesi dell'ex pubblico ministero Bruno Tinti, persona di cui ho grande rispetto. Ieri il professor Bruno Tinti ha recitato dei dati sul totale delle entrate IRPEF, quindi reddito persone fisiche, in cui diceva: ma Giannino con le sue tesi non ha diritto di cittadinanza. Non diceva così, ma insomma la critica era dura da parte sua, perché diceva: qua il lavoro dipendente regge il 93% del totale delle entrate dell'IRPEF. E io, non avendo molto tempo, mi sono semplicemente detto: no, questi dati così non sono corretti. Siccome molti ascoltatori mi hanno criticato dicendo: però tu non puoi dire così al pubblico ministero Tinti e poi non spiegare il perché, mi riferisco esattamente al tema toccato adesso da Raffaello Lupi. In Italia, sul totale di oltre 6 milioni di imprese che noi citiamo sempre, in realtà solo 1,5 milioni, poco meno di 1,5 milioni, hanno almeno un dipendente. Tutto il resto, la differenza, quei 4,5 milioni sono praticamente imprese individuali, sono di diverso tipo, partita IVA, eccetera eccetera eccetera. Allora, nel caso dell'apporto al totale del gettito del nostro paese, limitarsi a reddito persone fisiche di quei 4,5 milioni di imprenditori di se stessi è sbagliato, perché bisogna andare a vedere il prelievo che si spalma tra impresa comunque organizzata e reddito persona fisica. Questo intendevo dire ieri. Quello che conta di più, però, visto il nostro sistema, è il reddito impresa, non quello persona fisica. Scusate se torno a ripetervi quello che vi ha detto il professor Lupi. Secchi, prima flash da parte tua, perché ti ridò la voce subito dopo la pubblicità. Tua impressione di questa bandiera bianca? Visco ha sempre ragione? È che alla fine sono tornati alle tasse, ma d'altronde se non vuoi fare riforme strutturali devi per forza agire sul fronte delle entrate, no? Ma il tuo è un realismo rassegnato, oppure non ti convince e dici che bisogna criticarli, spingere? No, io il mio realismo semi rassegnato, nel senso che secondo me le ultime 2 settimane, 3 settimane di vita politica sono altamente istruttive sul paese, non solo sulla politica, caro Oscar. Cioè, questo è un paese dominato dalle corporazioni, è quasi, ahimè, irriformabile. Cioè, nessuno vuol fare le vere riforme che servono per mettere a posto il bilancio dello Stato. Nessuno vuol fare i provvedimenti che servono per abbattere lo stock di debito, e quando dico nessuno non intendo solo la politica è condizionata dagli umori delle corporazioni, delle lobby, delle caste, è una cosa incredibile. Per cui se nessuno vuol fare queste riforme, alla fine si arriva a fare queste cose, tasse, che a noi non piacciono. L'abbiamo detto e scritto, io e te abbiamo fatto insieme la battaglia sul super prelievo IRPEF, voglio dire, l'hanno cancellato, quando l'hanno cancellato ho detto bene, si comincia a fare una cosa seria, adesso continuate, però per continuare bisogna fare una benedetta riforma delle pensioni, vogliamo fare o no? Non si fa, quindi la mia conclusione è di realismo, se vuoi anche pessimismo, però è così. Tra le tante fantasiosi nuove manifestazioni di mostri dal videogame della manovra, ce n'è una che ieri mi ha fatto piegare in due dalle risate, perché Avevamo detto nei giorni scorsi che la Presidenza del Consiglio informava i giornalisti che in caso di reale profilarsi di un problema di copertura dei bilanci e contestazione della BCE, il governo aveva, per così dire, un'arma pronta, perché c'è un comma del decreto che autorizza all'elevazione delle aliquote IVA con un decreto ministeriale, quindi senza necessità di dover indicare nel decreto la nuova aliquota. E ieri abbiamo preso che ciò che il governo si riserverebbe di fare è quello di aumentare dal 20 al 22% l'aliquota standard dell'IVA per soli 3 mesi. Voi pensate quale sarebbe l'effetto sugli operatori italiani nel sapere che l'aliquota aumenta di 2 punti per soli 3 mesi? Primo, ovviamente non ci crederebbe nessuno, però intanto però per 3 mesi fermi tutti, e ovviamente tutti si concentrano a come evitare quei 3 mesi per l'IVA. Ma si può davvero arrivare a un simile livello di approssimazione? Cioè, è veramente fantastico, nel senso che io non pensavo di averne vista nella mia storia ormai pluridecennale, ma come in queste settimane, devo dire amaramente, risate di questo tipo su una perdita verticale di credibilità di questo tipo, beh, è raro, devo dire, veramente raro. Sentiamo come la pensano alcuni di voi. Cominciamo con Andrea, che chiama da Ravenna. Prego, Andrea. Buongiorno, signor Oscar. 3 cosine velocissime, perché al peggio non c'è mai fine, quindi ormai dovremmo essere vaccinati. Ma allora, mi sembra che... Guardi, lasci che sia io a prendermi l'accusa di ieri di Berlusconi. Berlusconi ha accusato chi parla come me di essere anti-italiano ieri al TG1. Io ho guardato il TG e mi sono veramente riso in faccia. Prego, signor Andrea. Oscar, dividiamo, anche io non sono di costituzione robustissima, così ci dividiamo un attimo un po' il peso. Allora, mi sembra che nel codice penale vigente gli ultra settantenni in carcere non ci vanno. Non so se la norma dell'evasione lo esclude, ma non credo. No, non può. 2. Allora, mi sembra che il 3 milioni di euro è a cranio, per farla breve, perché allora io moltiplico i soci di una società e quindi si moltiplica e si alza il livello dell'evasione. Magari mi sbaglierò, però sa, pensar male. 3. Provocazione brutta e stupida, forse. C'è qualche ministro delle finanze in pensione ancora lucido dei paesi europei confinanti che ha voglia di venire, lo prendiamo in leasing e di riscrivere il fisco in Italia, per farla breve. Grazie, buona giornata. Bene, io ricordo anche che sull'emissione di false fatture, secondo la norma uscita ieri, però scatta sempre la sanzione dell'esclusione indipendentemente dall'importo dell'operazione. Questa, secondo me, è la parte della norma su cui soffermarsi di più che la cosa dei 3 milioni con le false fatture, a prescindere dall'importo dell'operazione, dovrebbe scattare la sanzione. Voglio vedere. Nazareno da Trento, come la pensa? Volevo sottoporle, buongiorno dottor Giannino, una domanda, proprio è una curiosità. Il Eugenio Accorsio su Milano Finanza di 2 mesi fa, sì, uscì con una pagina intera che riferiva alcune cose sulle imposte, ma in particolare mi riferisco alle imposte per accertamenti già eseguiti, imposte, sì, passate in giudicato, imposte quindi esigibili. Le segnalava nella misura di 450 miliardi, di cui nel 2010 lo Stato era riuscito ad incassarne soltanto 10 di questi miliardi. Sì. Volevo sapere se la notizia intanto è esatta, se è di queste proporzioni. So che esiste un grosso problema di riscossione, ma al di là delle procedure che poi ostacolano l'accertamento, ma una volta accertate le imposte, lei lo conoscerà senz'altro il problema, è di queste dimensioni il fenomeno? Esiste veramente un bubbone di imposte esigibili che non si riescono ad incassare? Chiarissima la domanda, Nazareno. Adesso intanto la giriamo anche al professor Lupi, che spiega meglio. Il problema esiste da sempre sulla riscossione e sull'esazione dell'imposta. C'è stato sempre un problema storico di credibilità. Si è di volta in volta involuto l'ordinamento sul braccio operativo a cui affidare questo compito. Io, prima di rimandare la palla a Lupi, dopo un paio di altre telefonate, ricordo che ancora 2 giorni fa noi abbiamo avuto dal dottor Beffa, al capo dell'Agenzia delle Entrate, la conferma che dei 4 miliardi miliardi rotti dell'ultimo condono di anni fa, 2002, ben 2 miliardi e 7 sono inesigibili perché o appartengono a persone che sono sparite letteralmente o a imprese che sono fallite letteralmente. Questo è uno dei tanti problemi dell'esazione. Ce ne sono altri e diversi, ci torniamo sopra quando diamo la parola a Lupi per rispondere. Intanto sentiamo Gregory da Milano. Prego Gregory. Sì, buongiorno. Dunque, io mi sembra comunque la politica stia diventando solamente un gruppo di dilettanti. Vabbè, non ripetiamolo, siamo tutti d'accordo su questo, ma intanto la sua osservazione è su... Pubblicare i redditi online è solo propaganda, non si potrà fare mai, il garante della privacy lo impedirebbe. E poi vorrei capire, non sarebbe meglio a questo punto, come diceva Bersani oggi, tassare i grandi patrimoni immobiliari e anche eventualmente tassare il superfluo, non so, per esempio tasse su alcolici, gioco online e cose di questo genere, piuttosto che farlo ricadere così su un aumento dell'IVA ipotetico, anche quella cosa dei 3 mesi, assolutamente fantasioso. Gregory, su questo naturalmente sentiamo Lupi, sentiamo Secchi, ognuno può dire la sua. In effetti una delle tante conseguenze, a mio avviso paradossali, dopo 17 anni di chiacchiere al centrodestra, è che fa apparire la patrimoniale come uno degli interventi più equi che si possano immaginare. Infatti in 48 ore questa era la reazione alla sovraliquota IRPEF che colpiva chi già paga tasse con aliquote marginali elevate, e quindi apre la stura anche, come è giusto e legittimo, osservazioni come la sua, perché non ritassare questo, quello, questo di più e quello di meno. E qui però il campo è aperto. Io ero per una riforma ordinamentale che consentisse con un po' di ordine di fare con alcune priorità lo sviluppo, la crescita eccetera eccetera, e invece qui siamo al dover riequilibrare per coprire i fabbisogni di spesa e il deficit, l'azzeramento del deficit. Cosimo da Brindisi, come la pensa Cosimo? Buongiorno. Sì. Quello che dovevo dire io è stato già detto molte volte, la grande incompetenza che hanno dimostrato questi politici, se così si possono chiamare. Io non ne ho mai avuto una grande stima, perché quando la gente racconta barzellette serie non è mai, la barzelletta si può dire una volta nella vita. Io sono un piccolo artigiano, facciamo i miracoli per portare avanti le aziende e pagare gli stipendi ai dipendenti. Regolarmente siamo chiamati dei ladri, regolarmente ci chiamano ladri perché evadiamo, ma sfiderei questi signori a lavorare un giorno, un solo giorno, per vedere cosa vuol dire portare avanti un'azienda. Questo soltanto volevo dire. Ciao Cosimo, sa che spesso io mi becco analoghe definizioni, perché tento di spiegare la questione del lavoro autonomo nel nostro paese a chi crede di ridurre tutto alle cifrette che vengono dagli studi di settore. Professor Lupi, allora c'è alcune domande, una domanda su ci spiega il problema dell'esazione rispetto alle imposte accertate e a quelle che sono uscite dal contenzioso, perché lo Stato ne incassa così poche. Ma poi le ricordo anche che ci abbiamo ancora una risposta sulla pubblicazione online dei redditi. Lei ha detto sì, voglio sapere quelli dell'impresa, ma lei crede che avverrà al di là di tutto? Allora, l'importante per la riscossione è avere una casa o una macchina da espropriare. Se non hai quello, cioè se uno si rende nulla tenente, usa delle società schermo, cioè le vere società di comodo non sono quelle che hanno la villa in Sardegna, le vere società di comodo sono quelle che si aprono, si chiudono con il rumeno e non si sa chi è l'imprenditore vero. Cioè, per questo si recupera una cifra così irrilevante di quello che viene accertato. Noi mettiamo a ruolo, perché la nostra pubblica amministrazione è abbastanza formalistica, rigida, compartimentalizzata, tutte le frodi carosello delle società amministrate da uno che vive nei container, nella bidonville, gli mettiamo a ruolo milioni e milioni di IVA. È chiaro che non sembra, non lo dovremmo neanche iscrivere a ruolo. Perché quelli non li vedremo mai. Capito? Non li vedremo mai, perché lì c'è uno dietro che teneva le fila, cioè non vorrei rifare l'esempio della concia di Arzignano, dove erano milioni e milioni, cioè sono state inchieste televisive. Comunque quello che ha tenuto le fila di questa cosa è a piede libero, non era un imprenditore, Non era un imprenditore, era quello che organizzava le frodi carosello, appunto, con gli amministratori delegati extracomunitari che vivevano nei container. Quindi Equitalia Italia non sta peggio comunque degli ordinari creditori che devono recuperare, cioè è un paese difficile per i creditori, esatto, che esatto, devono recuperare, esatto. Quindi diciamo che Equitalia sta come tutti gli altri. Tant'è che quando Equitalia, lo Stato ha chiesto fai di più, ha dovuto fare di più dal suo punto di vista, esattamente nella direzione che vi ha detto Lupi, le ganasce, le cose, cioè l'unica cosa che può fare se gli chiediamo di fare l'impossibile è di essere più tosta verso le garanzie reali da offrire dai contribuenti. E lì però qualche mese fa, solo qualche mese fa, prima di cambiare l'ennesima volta idea, il centrodestra ha detto eh no Equitalia, stai esagerando, troppe ganasce, troppi fermi immobiliari e così via. Però naturalmente, come si vede, i segnali non sono molto coerenti del tempo. Ma guardi, io conosco gente che ha la casa intestata alla moglie, quell'altra intestata ai figli, le macchine in leasing, dichiara l'IVA e non la versa, quindi chi gli fai? Ecco, naturalmente non crediate che il sorriso ironico esprima consenso, ma naturalmente l'ordinamento inefficiente su cui mettere ordine è quello così descritto, più che con le grida manzoniano di dire vi mandiamo tutti in galera come fanno questi qua. Mario, però tu dici realismo amaro, cioè hai dato un giudizio, sei stato un po' parco di opinioni. Il problema è che se noi ci limitiamo al realismo amaro è come assistere a un funerale senza capire poi come si fa a reggere la famiglia. No, allora, adesso cerchiamo di dire questo. Allora, noi diciamo prendiamo atto della situazione, no? L'ultima manovra uscita dall'ultimo vertice di maggioranza è questa. Che cosa si può fare? Perché poi la manovra è emendabile, accidenti, perché se no il Parlamento cosa ci sta a fare? Bisognerebbe migliorarla. Per migliorarla che cosa servirebbe? Servirebbe introdurre qualche misura strutturale che allevia la parte delle entrate e qualche misura un po' più ragionevole sul fronte della cosiddetta evasione fiscale, no? Perché su questo, queste sono le leve sulle quali si può agire, posto che sulle privatizzazioni mi pare non ci sia trippa per gatti, visti anche i corsi di borsa, aggiungo però, una cosa che diceva Osvaldo Napoli prima era corretta. Privatizzare adesso, soprattutto imprese quotate, con il mercato così depresso è un po' un problema. Ma no, immobiliare, lì è il patrimonio immobiliare quello andrebbe ceduto. Sì, bisogna fare il computo, censimento, una cosa lunga. Qua c'è bisogno di soldi subito, perché poi dobbiamo calarci nella realtà, cioè bisogna fare cassa e abbastanza in fretta, perché vorrei ricordare abbiamo la BCE che pressa sotto questo punto di vista. Allora io penso che si potrebbe riprendere un po' la norma sulle pensioni, non quella sul riscatto della laurea del militare, ma vedere se si può cominciare a discutere di una finestra volontaria di uscita, per esempio, cosa sulla quale c'è un'apertura anche a sinistra. Io l'altro giorno discutevo con Piero Fassino, che è un sindaco e un autorevole esponente del PD, insomma, ventilava questo tipo di ipotesi. E io penso che se fossimo un paese serio, con anche i sindacati che fanno la loro parte e non chiudono la porta alle riforme, forse bisognerebbe cominciare a farlo, e si potrebbe pure fare. Allora io ti interrompo solo per dire a ricordare a chi è in ascolto che in caso di convergenza, se chi vi ha parlato di ipotesi volontaria, dice, i conti che ce l'avamo fatti qui con Confindustria, in caso di convergenza del tetto di età sia per vecchiaia che anzianità a 67 anni rispetto agli attuali 65 anni per uomini nella vecchiaia, 67 anni entro 4 anni e convergenza su questo dell'attuale sistema quote per i trattamenti di anzianità, in 4 anni far convergere tutto a 67 anni portava un saldo con interventi anche sulla reversibilità di 70 miliardi strutturale, 70 miliardi, avete capito perfettamente, 70 miliardi. Oltretutto noi siamo fuori linea rispetto all'Europa su questo, non si tratta di toccare i trattamenti previdenziali di chi è già in pensione, ma si tratta di allinearci facendo fare un salto al paese, sapendo che l'aumento della partecipazione al mercato del lavoro in quella fascia in cui siamo più deboli comporterebbe anche un aumento dei disoccupati in quella fascia, perché è ovvio che c'è un problema di assorbimento in quell'età del totale delle aziende, ma l'esperienza di tutti gli altri paesi che l'hanno fatto ci dimostra che il saldo è assolutamente positivo, non solo in termini di finanza pubblica e per fare cassa. Questo fanno politici di centrodestra seri in altri paesi, che conoscano i numeri. Dimenticavo naturalmente di riferirvi all'inizio che nel quadro dei mostri del videogame della manovra 3 o 4 o 5.0 c'è anche ciò che poi Berlusconi ha detto ieri alla conferenza a Parigi della nuova Libia, quando si è lasciato sfuggire questa roba, misure da socialismo reale, che non si è capito se fossero rivolte al Ministero dell'Economia, al povero Attilio Befera o a che cosa, ma insomma è evidente che siamo in presenza di un ulteriore malumore all'interno del governo su questo. Giovanni da Roma, prego, flash sintetico. Giovanni, come la pensi? Ah, io sono assessore di un comune di Grottaferrata. Sì. Cito due dati: Grottaferrata è il comune che ha la più alta concentrazione di depositi bancari, quindi questo tema dei crediti online non è indifferente. Mi chiedo, praticamente, i comuni come possono intervenire? Noi abbiamo 100 ristoranti e quindi è evidente che il comune avrebbe grande interesse a acquisire questo elemento di recupero dell'evasione, ma con quali strumenti? Dal momento che i comuni sono stati nel passato azzerati sul piano degli uffici tributari, quindi mi sembra uno di quei messaggi che praticamente poi non hanno nessuna conseguenza, se non magari quello che determinerà nel paese una ricerca, no, per la dialettica interna o per il pettegolezzo, per vedere se quelli che hanno i ristoranti denunciano tutto, ma tutto là. Risposta concreta che do io all'assessore, naturalmente su questo poi bisognerà vedere com'è la norma. Io ricordo che quando si pose il problema per le pubblicazioni in formato Word, che tutti i giornali facevano dell'elenco di tutti i contribuenti, la linea adottata dal garante della privacy fu quella di ritornare alla lettera di una legge, che è una legge Visentini addirittura, che poi è l'autore della famosa espressione manetta agli evasori, quello che introdusse obbligatoriamente il registratore di cassa nell'ordinamento italiano, e si tornò a una procedura di consultazione di elenchi cartacei dei contribuenti presso gli uffici delle imposte o nei comuni, ma solo per chi aveva un definito e molto ristretto titolo di accesso, altro che pubblicazione online. Questo allo stato è la linea adottata quando 3 anni fa vi fu il problema della pubblicazione da parte dei giornali, e quindi qui in questo caso bisognerebbe parlare di norme attuative di ordine diverso, perché se il governo mette questa norma in manovra deve intervenire su questo punto, perché altrimenti il garante della privacy di nuovo dovrà dire no, non ci siamo. Quindi dovranno prevedere una norma attuativa che equilibri la questione della privacy rispetto al fatto di incitare i comuni, giustamente molto interessati, a portarsi a casa il 100%, dice il governo, di quello che fanno in più con accertamenti in lotta all'evasione. Luca, da Firenze, prego Luca. Sì, buongiorno Oscar, buongiorno anche al professore e a tutti gli ascoltatori. Volevo velocemente dire due cose. È da quando facevo il liceo che praticamente ci stanno dicendo che la sinistra metterà, io sono un ex elettore di centrodestra, non metteva le mani nelle tasche italiane, la patrimoniale eccetera, fino ad ora ci hanno preso in giro, punto numero uno, oppure non sanno cosa fare, terza cosa forse non gli interessa perché loro sono della casta e quindi non vivono nel mondo reale. Altre due cose volevo dire sul mostro: il gioco finisce o quando c'è il game over dall'Europa o quando il contribuente smette di dare gli insert coin, perché qui loro il mostro bravo che ricordi Luca che come in tutti gli ordinamenti societari pubblici o privati esistono due forme di protesta ordinarie. Uno è la voice, se sono in un'impresa provo a mettere una lista in un'assemblea contro chi è il manager di cui non condivido, ma c'è anche l'exit è quando me ne vado o con le mani votando oppure coi piedi me ne vado, e anche i contribuenti possono farlo. Claudio da Vicenza, ultimo flash rapidissimo, prego Claudio. Rapidissimo veramente, intanto buongiorno Giannino. Guardi, parlando della concia di Arzignano e sì, di quello che sta succedendo sulla concia di Arzignano, è giusto ricordare comunque anche che c'erano gli imprenditori che hanno fatto il... Adesso non vorrei tirarmi le ire comunque delle forze dell'ordine, però voglio ricordare e voglio ribadirlo veramente, perché sono cittadini italiani come noi anche loro, che c'era la compiacenza da parte di alcuni funzionari delle forze dell'ordine, non sto dicendo di tutti, però quando si fa un reato e quando si arriva a quei livelli qua di reato vuol dire che qualcuno nasconde qualcosa. No, ma diciamolo anche con forze dell'ordine, dell'organizzazione, insomma, finanzieri, cioè degli uffici delle entrate c'era la compiacenza nella... Claudio, e ricordiamo anche che c'è stata naturalmente la reazione di imprenditori di Vicenza e così via, ma gli accenni che ha fatto il professor Lupi non erano per dire tutti uguali, era per dire che lì stiamo parlando di un'impresa grande, non piccolina insomma, in cui e a cui lo Stato chiede di fare il più, come abbiamo detto, dell'esazione delle imposte, e che però si auto-organizza, per così dire, e questa è la realtà, l'intreccio del problema italiano. Professor Lupi, brevissimamente, la sua... È proprio questo, da una parte glieli dà lo Stato e gliene dà tanti, dall'altra se ne prende un po'. Sulla questione dei redditi online e compagnia, si potrebbe tranquillamente risolvere il problema dicendo: dove vai a comprare i mobili, dove vai a ripararti la macchina, dove ti fai ristrutturare casa, ti devono dire quant'è il volume d'affari della loro attività, dei redditi, all'inizio non ce ne frega nulla, ma io in questo modo posso fare il controllo del consumatore. Esatto. Ecco, d'accordo. Del reddito, poi quanto guadagni con i costi, sono affari tuoi, voglio sapere il volume d'affari della struttura che mi sta facendo il servizio, così si può fare un po' di controllo reciproco quando richiedo un servizio, non è che mi metto su internet a cercare quanto dichiara di reddito il mio vicino di casa, che è assurdo. Grazie professor Lupi, viva la ragionevolezza di chi, conoscendo l'ordinamento, forse ha passato qualche anno, come vedete, nel dare delle indicazioni che poi sembrano enormemente più ragionevoli, ma è di quelle che poi vediamo. Mi interessa la conclusione di Mario Secchi, che cerco un pochino di tirare fuori, perché tu te lo vedi, noi lo conosciamo un pochino il Presidente del Consiglio, e in questi anni è un po' cambiato, c'ha molti cavoli, anche qui un altro la vitola che esce fuori, no, voglio dire, no, perché ci sono anche problemi di fondo che servono a capire l'equilibrio squilibrato di Berlusconi. Ma detto tutto questo, tu te lo vedi Berlusconi che continua, come sta avvenendo in questi due mesi, ad andare sempre più a fondo, sempre più, non se ne rende conto, secondo te, condivide davvero queste robe, ha un margine di reazione o bisogna pensare ad altro? No, tu sai benissimo che non le condivide. Io ci ho parlato l'altro ieri, ovviamente perché mi interessava capire, sono riuscito a parlarci, ho pubblicato un colloquio. Lui non vuole, per esempio, io non penso che la sola idea della manetta all'evasore in quella maniera, con poi la sospensione della condizionale, lui è contrario, è evidente. Aveva detto: guardi, io non voglio norme da Stato di polizia tributaria, voglio certamente una lotta all'evasione, ma non che non sconfini nella vessazione, cose che conosciamo, quindi è chiaro che lui non condivide questo tipo di singoli provvedimenti. Però c'è un grande macigno sulla strada del paese, del governo e di chiunque governi, e cioè i veti incrociati tra le corporazioni. Finché noi non superiamo questo aspetto del nostro costume pubblico, Oscar, il paese sarà irriformabile. Cioè tutto quello che diciamo io, te e le cose sacre rimbalza, rimbalza. Però come io ti dico, Montezemolo e i voti che prende in più nei sondaggi, ieri si è aggiunto Profumo. È tempo che moderati ribelli di centrodestra facciano punto e iniziano a raccogliere soldi e firme. Io sono pronto, questi microfoni non possono fare di questo genere, però la mia opinione è che o così o si regala alle corporazioni e ad altra gente che ha idee diverse da quelle nostre liberali il legittimo diritto, dopo questi autoribaltamenti del governo, di ereditare un paese in queste belle condizioni. E per il gioco democratico, perché non provare a dare idee di ragionevolezza con una rappresentanza diversa che dica: fino a questo momento chi c'era con noi basta, niente a che fare. Appuntamento lunedì, linea Generale Radio.